Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Thank you. Siamo nel pieno dell'ultima parte del volume numero 5 di Eclettica, con Giulio Caperdoni, ovvero sia l'ultima della settimana dato che siamo presenti su queste frequenze fra lunedì e il venerdì, fra le 19 e le 20. Si è aperto con Sunset Rubdown, The Taming of the Hands That Came Back to Life, e questo è il titolo del brano che si è appena chiuso, per il progetto che era nato come un progetto solista di Spencer Krug dei Wolf Parade, che poi è diventato a tutti gli effetti un gruppo. Passiamo ora ad una novità, un disco uscito il 22 di gennaio per Jack Jaguar, rimanendo in Canada, spostandoci dal Quebec alla British Columbia per i Black Mountain. Magari qualcuno potrebbe averli notati nella colonna sonora dell'ultimo Spider-Man. Black Mountain, che intitolano In the Future, un disco che invece ha tantissimi rimandi al passato, soprattutto agli anni 70, sonorità a seconda dei brani come quelle dei Led Zeppelin o come quelle dei Pink Floyd. Noi ci ascoltiamo la traccia che ha per titolo Stormy High, che è proprio quella che apre l'intero album In the Future. Le immondizie rotolarono dalla cassetta metallica e caddero in tromba nel grande bidone del pian terreno. Gusci d'uova, torsoli, carte unte, bucce. Un odore molle e parassitario ne accompagnò la deiscenza. Mica tanto sgradevole questo odore, non troppo diverso dal profumo del muschio umido dei boschi più profondi, ma con un retrogusto di zinco dovuto al recipiente che, a mezzo dell'apposita limitrofa carriola, sarà trasferito lungo il marciapiede per gli spazzini che all'alba porteranno tutto via. Sbarazzata del suo contenuto, la cassetta sospesa a un braccio virile stava per riprendere il cammino verso sesto piano, quando sopraggiunse una servetta. Questo era l'incipit di Suburbio e fuga di Raymond Queneau. Thank you. Larry, Daly, the new night guard. Pleasure to meet you, Lawrence Daly. You'll have to excuse me, though. The hunt is afoot. Io possa essere dannato se non ti amo. E se così non fosse, suavemente delicata di un profumo che dà gli spasmi. Paolo Benvenu a rifare Domenico Modugno e prima ancora Queen Walker con Baby Neon. Sono questi gli ultimi due brani che vi siete ascoltati in ordine inverso all'interno di Eclettica. Ne manca solo uno, che fra l'altro ci ascolteremo una volta sola, perché esattamente come il singolo che aveva preceduto questo album non è che mi convinca del tutto, però ci tengo a fare anche un po' di cronaca, visto che il progetto aveva tutte le migliori premesse. Sto parlando di Neon Neon, il progetto che vede assieme il produttore elettronico Boom Beep e Graf Rice dei Super Furry Animals. Tanto non mi aveva convinto Raquel, il singolo che già ho citato, come non mi convince l'intero Stainless Style, album in uscita nel mese di febbraio per Lex. Il brano che io ho scelto è Trick for Treat, da un album che si ispira alla vita del playboy, ingegnere, uomo d'affari John DeLorean, che riuscì a farsi prestare anche 85 milioni di sterline dal governo britannico per cercare di soddisfare il suo più grande sogno, cioè quello di costruire un impero automobilistico. Quello che ha avuto è stata solo gloria e imperitura grazie al ritorno al futuro. Society high in bitch look good, so they call me Hollywood. But ringing rebel, rebel, doing things they wish they could. But they got me round in collar, Geesa, I wish you would. All right, all white, all white, what's good? That Oprah man, breathing like oxygen. My man Montana had me sledding through the tropics, man. I told him my issues, asked how to get in issues. Sent me home with a gift, a few bricks from his igloos. And now I'm back from the future, stepping out my doorway. From Virginia, honey, let me explain. Jesus said it was easy, Jigga man, the same thing. Plus this, take a step, take a second, taste the drip, drip. She got me dreaming like a Michigan boy in Hollywood. She got me doing all I can. The way I'm dressed is blowing in the wind. She looks cool, a woman like to dip my pinky in. She got me dreaming like a Michigan boy in Hollywood. She got me doing all I can. The way I'm dressed is blowing in the wind. She looks cool, a woman like to dip my pinky in. There's so much more than this. Back to the future, break the sutures on your septum, alleviate the deviated nature and we'll wreck them. Latchkey kid, feel the drip, licking pussy lips. Bitches all around me, wiggling hips. Feel the chop, time just stops. Roll another tutor, baby, suck that shit up. Bag of skull and crushed up bones. But the bathroom line is just too long. Girlie walked with me so we could feed the greed. Lurking in the alley, see, delete. One hand, one key, the other feeling on me. I'm gonna stick it in the chicken head, cause shit ain't free. I'm waiting for my man. Secret shake, weight, exchange hands. Salute me, Sergeant DeLorean, baby, that's the highway I'm right. At ease, meet my platoon of Benjamin Price. They run deep through the trenches, blasted Charlie's vapor bitches. All sets fine to keep them wake with picture. I'ma miss these niggas' cheese. Cheddar, Romano, Buddha, hungry belly full like Buddha. You said we was alone, who's the intruder? She got me dreaming like a Michigan boy in Hollywood. She got me doing all I can. The way I dress me blowing in the wind. She looks cool, a woman like to dip my pinky in. She got me dreaming like a Michigan boy in Hollywood. She got me doing all I can. The way I dress me blowing in the wind. She looks cool, a woman like to dip my pinky in. She got me dreaming like a Michigan boy in Hollywood. She got me doing all I can. The way I dress me blowing. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 12, volume numero 5. Indice, Atlas Sound, Fuck Buttons, Don Turbolento, Young Galaxy, Sunset Rubdown, Black Mountain, Queen Walker, Paolo Benvenu, Neon Neon. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.